Il ministro dell'Interno Scajola ha squadernato davanti al Parlamento la linea scelta dal governo Berlusconi. Usare i black bloc per criminalizzare i centri sociali, accusare Genoa Social Forum di connivenza con la violenza ed estendere il teorema fino all'opposizione parlamentare. La tenaglia è così congegnata. Ci sono i black bloc che hanno un piano eversivo, i pacchi bomba prima, le distruzioni a Genova poi. Con progressive insinuazioni, dai black bloc il ministro dell'Interno passa ai centri sociali, alle tute bianche e poi al Genoa Social Forum. Il contenitore che, seguendo il filo logico del ministro, tiene dentro di sé eversori e terroristi. L'area del vertice non è stata violata, nonostante i ripetuti tentativi dei gruppi più estremisti ed addirittura gli incitamenti di alcuni massimi responsabili del Genoa Social Forum. Scajola mette vicini i tasselli, sta poi agli esponenti politici della destra, senza esclusioni, avanzare nell'escalation. L'Ulivo, IDS, chiedendo le dimissioni di Scajola, diventano conniventi con il Genoa Social Forum, quindi con le tute bianche, quindi con il black bloc, quindi con l'eversione. Manca solo che lo si dica esplicitamente, ma l'intimidazione è chiarissima. Il capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera, Ignazio La Russa. L'obiettivo del Global Forum, così come del Black Bloc, così come, ahimè, dei partecipanti della sinistra, era sostanzialmente il medesimo. Delegittimare il G8, sfondare la zona rossa, sia pure pacificamente, dare il segnale di una opposizione dura, forte, a quello che avveniva. Non c'è nessuna differenza negli obiettivi. Non c'è stata nemmeno alcuna differenza nei metodi. Coloro che volevano esercitare le azioni di guerriglia del mordi e fuggi si sono mossi coperti dai gruppi cosiddetti pacifisti. Fini è sulla stessa linea, sostiene che il centro-sinistra si è schierato con i teppisti. Rutelli, quando risponde, è furibondo. Argomenti di un giovane militante del movimento sociale, indegni di un vice premier. L'Ulivo, come rifondazione, ha chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno, il capogruppo dei DS, Violante. Abbiamo voluto, signor ministro, che dicesse una parola su quello che è successo in quella scuola di notte. Ci sono stati pestaggi inammissibili, c'era il sangue dappertutto in quella stanza. Si è fatta la perquisizione quella notte con centinaia di carabinieri. Lei era stato informato preventivamente o no? Lei mi dice di no. E com'è possibile che il ministro degli interni non si è informato preventivamente in un'operazione di quel genere con centinaia di persone? Lei ha fatto il suo dovere chiedendo di essere informato per le operazioni di questo peso. I deputati di Rifondazione dei Verdi hanno contestato più volte Scajola, gridandogli spesso bugiardo, vergogna. Il segretario del PRC, Bertinotti. L'aggressione alla sede del Genoa Social Forum è inaudita. Qui è avvenuta una sospensione dello Stato di diritto. Qui in molti hanno avuto la sensazione di stare in un regime di polizia. Signor Ministro, c'erano dei parlamentari lì. La polizia li ha scavalcati, non li ha neanche ascoltati. C'era un avvocato che chiedeva di essere dentro. È stato prevaricato. C'erano dei medici che chiedevano di poter vedere quei corpi che venivano massacrati. Gli è stato impedito. C'erano dei giornalisti che volevano vedere. Li avete impedito. Cosa è questo se non un atto di regime di polizia? Questa è una responsabilità gravissima. Il telefono Ramon Mantovani, che è parlamentare di Rifondazione Comunista. Se dovessi dire uno stato d'animo è quello di angoscia, perché la relazione di Scajola è evidentemente il tentativo di criminalizzare tutto il movimento e di buttare una croce addosso a una nuova generazione che è nata alla politica con la contestazione alla globalizzazione. È coerente con la gestione della piazza, che non abbiamo mai visto negli anni, no, che peraltro erano molto duri, quello che è successo nelle giornate di venerdì e di sabato. Non c'era contatto fra poliziotti e manifestanti pacifici, cioè non era possibile parlare con la polizia. Tu hai parlato con De Gennaro? Sì, sì. Cosa diceva De Gennaro? Abbiamo parlato per tutto il giorno con il questore, con De Gennaro. Negavano. Siero grandi dei DS. Allora, una valutazione sulla relazione del ministro. Pessimo. Peggio di così era difficile immaginarlo. Se è incapace di valutare le diversità, le ragioni del movimento, evidentemente non è in grado di fare il ministro degli interni. Se ci ha marciato sopra, cioè se c'era un'intenzione politica, come è possibile, beh, è ancora peggio. Siete tuttora convinti che fosse giusta la scelta che il partito IDS non fossero, non sfilassero a Genova? La mia opinione resta quella che si poteva anche decidere in altri modi, perché nei rapporti con un movimento come quello dell'anti G8 Gli elementi di contiguità ci sono, ma ci sono sicuramente anche molti elementi di distinzione, non fosse altro per il fatto che dentro lo stesso movimento ci sono opinioni anche molto diverse, come è legittimo ed è giusto che sia, perché c'è anche un grande dibattito che purtroppo è andato in ombra con queste vicende. Allora, si poteva anche scegliere di, come dire, invitare ad andare lasciando liberi, cioè senza fare una cosa di portare tutto il partito, perché forse tutto il partito non era d'accordo di andare, però indicando la scelta di andare come una scelta che aveva sicuramente un'indicazione favorevole. E adesso bisogna rimboccarsi seriamente le maniche, aprire una riflessione, cercare di recuperare il terreno perduto e soprattutto offrire quello che mi pare il compito politico principale, cioè una sponda politica agli argomenti, alla suggestione, agli interrogativi di questo movimento.